Quando sono le 16:07 appena passate, ricomincia Interferenze, sempre in diretta dai microfoni di Blackout. Quest'oggi ci sono Ilaria e Francesca che vi salutano. Un saluto a tutti e a tutte. Vi ricordiamo i contatti per scriverci durante la trasmissione, quindi il numero di cellulare è 346-667-3263, il telefono fisso è 011-249-5669. Vi lasciamo a un pezzo musicale e poi vi presenteremo gli argomenti che andremo a trattare nella puntata di quest'oggi. Buon ascolto. Siete sempre in ascolto di Interferenze, allora andiamo a presentare la puntata di quest'oggi. Come di consueto dedicheremo uno spazio alla rassegna stampa di quest'ultima settimana, andando a commentare un paio di notizie. Vi presenteremo poi un appello che sta girando in rete con preghiera di diffusione, che quindi vorremmo condividere anche qui dai microfoni di Radio Blackout. Cercheremo poi di metterci in contatto con la nuova occupazione che questa mattina qua a Torino è stata fatta da parte di alcune famiglie, dal collettivo Prendo Casa, quindi ci faremo un po' raccontare come sta andando la situazione, e chiuderemo poi commentando e leggendo una riflessione di Beatriz Preciado. E intanto vi presentiamo qual è la selezione musicale di oggi. Oggi ascoltiamo un gruppo la cui leader è Brody Dale, insomma, ha già avuto modo di passare da questi microfoni, da interferenze. E Brody Dale, appunto, front woman del gruppo Distillers, gruppo di prima linea, direi, nel panorama punk californiano. Brody Dale, di origine australiana, si è recentemente, insomma, messa in un altro progetto più rock che punk, ma comunque sempre un progetto con quelle sonorità, e molto caratterizzato dalla sua voce particolarmente, direi, interessante. E il gruppo si chiama Spirenet, questo è il loro omonimo album del 2009. Ci ascoltiamo ancora un po' di pezzi, insomma, spero che apprezziate la selezione. Hunter, un pezzo delle Spirenet. Adesso partiamo con un po' di rassegna, in particolare un evento che si terrà a breve nella nostra città e che riguarda l'andamento di quello che possiamo vedere essere lo smantellamento delle strutture pubbliche sanitarie all'interno della regione Piemonte ad opera del governatore Cota. E insomma, a partire da quella che è stata una mobilitazione anche seguita dai microfoni di Radio Blackout, che è stata quella in difesa dell'ospedale Valdese, prima ad essere colpito come centro di eccellenza per la cura e la prevenzione in particolare dei tumori al seno. E insomma, le mobilitazioni a proposito sono state già raccontate da questi microfoni, continuano a darsi nonostante il fatto che la giunta abbia confermato la volontà di vendere la struttura. E adesso la mobilitazione si sposta, come era prevedibile, insomma, contro i tagli di quelle che sono le strutture più piccole, le strutture secondarie secondarie, insomma, per la logica dell'agglomerazione, insomma, del risparmio a tutti i costi. E insomma, la struttura in questione, che andrebbe a subire i tagli, è quella dell'ospedale di Susa, ospedale che insomma, secondo il piano regionale dovrebbe veder chiudere il reparto maternità o comunque depotenziato, insomma, a causa della mancanza di fondi. Le donne della Valsusa già si stanno mobilitando da alcuni mesi, insomma, per porre l'attenzione su quello che è la politica, appunto, che viene portata avanti, in particolare, come è chiaro che sia, insomma, porre il parallelismo tra quelli che sono i soldi che vengono spesi o che vengono previsti di spesa per le grandi opere, in particolare in Valsusa, e quelli che vengono tagliati per i servizi primari e in particolare, appunto, in questo caso la sanità. Portando avanti questa lotta, questa difesa del diritto a un controllo della salute durante la maternità, si sta organizzando un presidio delle donne della valle davanti alla regione per questo martedì. Quindi l'idea è quella di portare le donne che sarebbero coinvolte in questi tagli proprio davanti a coloro che decidono quando e cosa tagliare. E, scusate, e quindi sia per questo martedì mattina, il 22, il prossimo, il comitato delle mamme ha deciso di andare a incontrare l'assessore Monferrino per consegnare le firme raccolte contro, appunto, la chiusura di Susa. Assieme alla consegna delle firme ci sarà un presidio davanti alla regione. La partenza, vediamo i contatti per partire da Susa se siete della valle, la partenza è dalla piazza d'Armi alle 11. Sferma anche a Bussoleno e tutta la valle. Richieste, insomma, sul sito lavalle.che resiste.info potete trovare i contatti per organizzarvi per scendere se venite dalla valle. E insomma, invitiamo tutti e tutte a tenere le orecchie ben aperte rispetto a questa mobilitazione. Martedì sicuramente dai microfoni della radio si darà informazione di quanto sta succedendo. Ci spostiamo invece adesso in Turchia per continuare a dare, insomma, qualche notizia dagli ultimi giorni. Vi raccontiamo la vicenda di una ragazza di 21 anni che l'anno scorso si trovava in Francia per motivi di studio all'interno del programma Erasmus. Una volta tornata in Turchia è stata accusata di far parte di un'associazione terroristica, adesso rischia fino a 21 anni di carcere. La vicenda, insomma, è veramente assurda, perché quello che ha portato all'accusa di questa ragazza è stato il fatto di aver partecipato al corteo del primo maggio a Lione, di essere andata ad un concerto di un gruppo evidentemente politicamente schierato, e questo, insomma, è bastato per mettere su questo impianto accusatorio veramente folle, che appunto vorrebbe la ragazza che far parte di appunto gruppi terroristici turchi. Insieme a lei, insomma, sono finiti nell'accusa anche altri quattro ragazzi, tutti turchi. La notizia appunto ha avuto particolare risalto soprattutto in Francia, moltissime persone hanno deciso di mobilitarsi per appunto smontare questo impianto accusatorio, per chiedere che la ragazza insomma venga immediatamente liberata e che insomma gli anni di carcere che rischierebbe insomma rimangano una follia del governo e della polizia che hanno messo su questa vicenda, che appunto possa tornare libera al più presto. Quindi una notizia che prendiamo da contropiano, quindi vi rimandiamo insomma all'articolo per approfondire la vicenda e anche a continuare a seguire gli sviluppi, visto che appunto ci sono state diverse mobilitazioni in sostegno di questa ragazza nell'ultimo periodo. Insomma, staremo un po' a vedere come evolverà la situazione. Sì, in generale possiamo dire che la Turchia in questo momento si trova un po' sotto i riflettori per una serie di brutti eventi. Ricordiamo l'assassinio e esecuzione di tre donne attiviste curde proprio nel centro di Parigi qualche giorno fa, insomma una decina di giorni fa, e appunto anche questa vicenda mette in luce come la repressione del governo turco stia dando il peggio di sé in qualsiasi modalità. E insomma l'appello che tra poco vi faremo, vi leggeremo, vi metteremo a conoscenza, sempre riguarda la Turchia, quindi insomma direi che è proprio un momento particolarmente brutto sia per l'immagine a Turchia ma in generale per chiunque in Turchia stia facendo attività politica. We'll be right back. quanto dicevamo poc'anzi, adesso parliamo sempre di Turchia. Parliamo di Pinar Selek, sociologa, femminista, antimilitarista e attivista per la pace, che sta per essere nuovamente portata a giudizio in Turchia, nonostante sia stata precedentemente assolta ben due volte. Pinar, insomma, che lotta per i diritti dei gruppi emarginati e oppressi nel suo paese, si trova adesso ad affrontare una richiesta di condanna di 36 anni di reclusione. È diventata bersaglio della repressione turca a causa di una ricerca sociologica condotta nel 96 sulle condizioni del conflitto armato tra Turchia e Kurdistan e sulle possibilità di soluzione. Nel 98, quando venne fermata dalla polizia, Pinar nella borsa ha i colloqui con alcuni militanti curdi. L'ultimo progetto a cui stava lavorando, la polizia la ferma, requisisce le registrazioni e vuole i nomi delle persone intervistate. Lei si difende invocando giustamente il segreto professionale, ma la spiegazione non è sufficiente per la giustizia turca. Seguono quindi 8 giorni di tortura, l'accusa di terrorismo e 2 anni e mezzo di carcere. Il 13 dicembre 2012 c'è stato l'ultimo atto di questo processo, che ha visto il rinvio al prossimo 24 gennaio con la richiesta di una nuova condanna a 36 anni nonostante le precedenti assoluzioni. Pinar stava per finire la sua ricerca sulle conseguenze e gli effetti della guerra civile in Turchia, che per decenni aveva causato numerose vittime e sofferenze nel paese, quando si è vista coinvolta in una cospirazione che l'accusava di aver messo una bomba al bazar delle spezie di Istanbul. Ha trascorso 2 anni e mezzo in prigione e altri 11 anni nelle aule di tribunali. Perché fosse stata assolta 2 volte, ha dovuto sopportare continue accuse che la tacciavano di essere una terrorista, appunto per questa sua inchiesta giornalistica. La sua maniera di rispondere a questi attacchi era l'unica che conosceva, con la conoscenza, insomma, portando avanti il proprio lavoro. Durante quel periodo Pinar non ha rinunciato né ai suoi studi né all'impegno lavorativo, insomma, ha pubblicato diversi articoli, diversi reportage su diversi aspetti, in particolare, insomma, parlando sia di Kurdistan ma anche di virilità nel contesto dell'esperienza del servizio militare, insomma, un lavoro decisamente interessante. Sì, tra l'altro tra le ultime iniziative portate avanti da Pinar ricordiamo che ha fondato la prima libreria femminista di tutta la Turchia, che è aperta dal 2008 e che continua a coordinare ancora oggi. Insomma, durante questi anni, durante questa vicenda, tantissime persone hanno scelto di schierarsi dalla sua parte, di denunciare l'accaduto e di difenderla da queste accuse. Il 24 gennaio potrebbe essere davvero il giorno in cui tutta questa vicenda potrebbe giungere alla conclusione, quindi con questa accusa di 36 anni di reclusione. In realtà ci sono già stati moltissimi rinvii a giudizio, quindi insomma non è detto, e ci auguriamo che non sia l'udienza definitiva, ma che anzi possa ottenere giustizia e che questo impianto venga smontato. Però ovviamente in vista dell'udienza c'è molta attenzione attorno a questo evento, ed è stato previsto che sotto il Tribunale di Istanbul per quel giorno ci siano osservatori e osservatrici internazionali che appunto possano monitorare la vicenda e anche diffonderla. Quindi a questo proposito vi invitiamo innanzitutto a diffondere l'appello, che potete trovare in rete con facilità, e poi c'è anche la possibilità di mandare delle email di solidarietà, insomma, per far sentire vicinanza, con l'invito a scrivere possibilmente in inglese. L'indirizzo è solidarietà@pinarselec.italia@gmail.com. Quindi insomma ci tenevamo a dare uno spazio a questa vicenda. Vedremo come andrà la vicenda il prossimo 24 gennaio, nel caso riaggiorneremo insomma sulla situazione nelle prossime puntate. Yeah. 16:42, siete sempre in ascolto di Interferenze sulle libere frequenze di Radio Blackout. Come vi abbiamo annunciato ad inizio puntata, siamo in collegamento con la nuova occupazione di Corso Vercelli, che è stata fatta questa mattina da quattro famiglie dal collettivo Prendo Casa. Abbiamo raggiunto ai nostri microfoni Pierpaolo. Ciao Pierpaolo. Ciao a tutti e tutti gli ascoltatori. Ti sento molto basso, comunque insomma penso tu abbia introdotto della nuova occupazione che da questa mattina è in corso qui al confine tra Barriera e Falchera, potremmo dire, nei pressi della rotonda, diciamo famosa perché già abusata da parte dei fascistelli delle nostre città per fare le loro inscenate quando con due fumogeni l'avevano bloccata. Oggi abbiamo voluto rioccupare uno stabile abbandonato da alcuni anni, che era una ex caserma dei vigili urbani e che da adesso in poi sarà la casa per alcune famiglie che sono state trattate, che hanno seguito con noi il percorso con Prendo Casa a Torino e insomma avevano la necessità di avere una casa, hanno trovato ospitalità da genitori e amici per un po' di tempo, ma le situazioni ovviamente erano insostenibili, poi comunque dobbiamo rivendicare la casa come diritto e quindi questo era un passaggio quasi obbligatorio che da tempo volevamo fare. È vero che eravamo già organizzati per farlo ieri, ma poi vista l'importante manifestazione organizzata in Barriera di Milano abbiamo preferito partecipare alla manifestazione e non togliere la visibilità, perché anche lì era importante dare un segnale di quel tipo in vista, lo ricordiamo, avete già fatto credo in radio altre trasmissioni, il solito martedì del mese in cui sono raggruppati tutti gli sfratti cade proprio questo, quindi insomma noi penso che cercheremo anche di dare un contributo in tal senso, ovviamente avremo un occhio di riguardo anche a proteggere questa nuova occupazione, visto che le ingenti forze che mobiliseranno come sempre potrebbero avere magari anche in mente di fare un giro da queste parti, quindi nel limite del possibile daremo anche noi una mano in quel contesto, ma ovviamente abbiamo anche adesso intenzione di rendere vivibile questo posto, un posto che ha quattro grossi appartamenti dove saranno le famiglie, uno spazio al piano terra dove cercheremo di renderlo così il più possibile aperto nei confronti del quartiere. Già dalla mattina insomma la risposta del vicinato è stata buona, c'erano diverse persone che sono venute a chiedere informazioni, addirittura il prete di zona è venuto a portare la sua solidarietà, ciò che fa sorridere gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout, ma anche questo c'è stato e non vedo perché nasconderlo. E niente, adesso stiamo lavorando duramente per allacciare elettricità ed acqua e questo sarà ovviamente il primo obiettivo, perché il problema sarà cercare di fare vivere questo spazio non solo e unicamente come una casa, che ovviamente è la motivazione principale per cui l'abbiamo occupato, ma anche come spazio, ripeto, aperto, ampie stanze al piano terra in cui si possono organizzare anche attività così che decideremo mano a mano anche in base alle esigenze appunto degli abitanti del quartiere. Va bene, quindi insomma sicuramente dopo una giornata come quella di oggi in vista di quella di martedì credo che questa sia la risposta migliore e più bella che si può dare a un problema come quello della casa, che sta diventando veramente scottante, non più rinviabile in una città come Torino, quindi insomma far vedere che una risposta e un'alternativa è possibile credo fosse la cosa migliore. Ti chiederei se insomma ci sono già degli appuntamenti in programma oppure di dare magari qualche indicazione per chi volesse passare, non so se servono materiali. Non abbiamo appuntamenti nell'immediato perché vogliamo appunto prima essere sicuri di riuscire a lanciare decorosamente l'elettricità, certo, e l'acqua almeno, e al momento insomma ci vuole ancora un po' di lavoro, però sicuramente magari non questa settimana visto anche appunto la giornata di mobilitazione di martedì eccetera, ma da quella successiva cominceremo a renderlo il più possibile aperto. Invece chiunque volesse, curioso a passare a vedere la occupazione, ovviamente le porte sono aperte, i compagni stanno lavorando duramente, chiunque volesse anche portare il solito materiale che serve in questi casi, quindi dalla legna al cibo, qualunque cosa possa venire in mente per rendere dignitosa una nuova occupazione, è libero di farlo. Siamo all'incrocio sostanzialmente tra Corso Giulio e Corso Vercelli, poco prima dell'imbocco dell'autostrada Torino-Milano, e lo stabile è perché ormai è tappezzato di striscioni e comunque è uno stabile in mezzo a un ampio parcheggio insomma di quel benzinaio e McDonald's che ci sono qua vicini, giusto per dare un riferimento. Va bene, allora insomma rigiriamo a quanti sono in ascolto, l'invito a passare anche solo per poco, a portare un po' di solidarietà, a dare una mano, che sicuramente i lavori mi immagino saranno molti, e insomma in bocca al lupo per tutto, buon lavoro e ci risentiamo presto. Grazie a voi. Un saluto, ciao. A tutti, ciao. 16:50, durante la pausa musicale ci è arrivato un messaggio qui al 346-667-3263 che ci chiede maggiori informazioni per la giornata di mobilitazione di martedì. In realtà quello che possiamo dire è che appunto su Torino c'è la tendenza a concentrare nello stesso martedì del mese molti sfratti per cercare di disperdere la resistenza agli sfratti, e che quindi in occasione di questa giornata viene sempre convocato un presidio per difendere le famiglie a rischio di sfratto. Non so se ci sia già un appuntamento preciso, possiamo rimandare all'ascolto di Radio Blackout, che sicuramente a partire da domani darà certamente informazioni più precise anche nello spazio informativo, quindi appunto l'invito a rimanere sintonizzati. Mancano 10 minuti alla fine della puntata, quindi ci prepariamo a volgere al termine. Come vi avevamo detto in apertura, vorremmo leggervi alcune parti di una riflessione di Beatrice Preciado che è stata fatta alla luce del Family Day francese che si è tenuto lo scorso 13 febbraio in risposta alla proposta del governo di Hollande di istituire il matrimonio anche per gli omosessuali, una proposta che appunto ha scatenato la reazione della destra, di gruppi cattolici e quant'altro, insomma una reazione prevedibile che anche qua in Italia conosciamo bene, che appunto ha portato a questa riflessione di Beatrice Preciado, che in realtà però affonda anche un po' nella sua esperienza di bambina cresciuta in una famiglia ultracattolica, educata in una scuola religiosa. Quindi volevamo appunto leggermene delle parti perché è davvero molto bello, poi vi rimanderemo insomma all'articolo completo per chi volesse saperne di più. Gli integralisti cattolici, ebrei o musulmani, gli psicanalisti edipici, i socialisti naturalisti, gli sinistrorsi eteronormativi e la truppa sempre più ingrossata di coloro che sono alla moda retrogradi, si sono trovati d'accordo domenica scorsa per fare del diritto del bambino ad avere una madre e un padre l'argomento cardine per giustificare la limitazione dei diritti delle persone omosessuali. È stato il loro giorno di uscita, un gigantesco outing. La loro egemonia eterosessuale si è sempre diretta sul diritto di opprimere le minoranze di sessualità e di genere. Siamo abituati a vederli brandire un'ascia. Il problema sta nel fatto che stavolta forzano i bambini a portare questa loro ascia patriarcale. Bambino che pretendono di proteggere non esiste. I difensori dell'infanzia e della famiglia si richiamano alla figura politica di un bambino che loro stessi costruiscono, un bambino presupposto eterosessuale e dal genere conforme alla norma, un bambino privato di qualunque forza di resistenza, di qualunque possibilità di fare un uso libero e collettivo del proprio corpo, dei suoi organi, dei suoi fluidi sessuali. Questa infanzia che pretendono proteggere richiama piuttosto terrore, oppressione e morte. Approfittano del fatto che per un bambino sia impossibile ribellarsi politicamente al discorso degli adulti. Il bambino è un corpo al quale non viene riconosciuto il diritto di gestirsi, di disciplinarsi. Difende i diritti del bambino che è differente, i diritti del bambino che ama indossare il colore rosa, della bambina che sogna di sposarsi con la sua migliore amica, i diritti del bambino queer, frocio, lesbica, transessuale, transgender. Chi difende i diritti del bambino di cambiare genere se lo desidera? I diritti del bambino alla libera autodeterminazione del genere e della sessualità. Chi difende i diritti del bambino a crescere in un mondo senza violenza sessuale, senza violenza di genere? L'onnipresente discorso dei diritti del bambino ad avere un padre e una madre mi fanno pensare al modo di esprimersi del nazionalcattolicesimo della mia infanzia. Sono nata nella Spagna franchista, dove sono cresciuta in una famiglia eterosessuale, cattolica di destra, una famiglia esemplare che i Destroyers di oggi potrebbero erigere ad emblema della virtù morale. Ho avuto un padre e ho avuto una madre, hanno scrupolosamente adempiuto alla loro funzione di garanti domestici dell'ordine eterosessuale. Nei discorsi che si sentono oggi in Francia contro il matrimonio e la procreazione medicalmente assistita per tutti, riconosco le idee e gli argomenti di mio padre. Nell'intimità del nucleo familiare, mio padre esprimeva un sillogismo che invocava la natura e la legge morale per giustificare l'esclusione, la violenza e addirittura la messa a morte di omosessuali, travestiti, transessuali. Cominciava così: un uomo deve essere un uomo e una donna deve essere una donna, come Dio ha voluto. Continuava con: ciò che è naturale è l'unione di un uomo e di una donna, per questo gli omosessuali sono sterili, fino all'implacabile chiusa: se mio figlio o mia figlia fossero omosessuali, preferirei ucciderli. La figlia ero io. Il bambino è un artefatto biopolitico che garantisce la normalizzazione dell'adulto. La polizia del genere sorveglia la culla dei nascituri per trasformarli in bambini eterosessuali. Se non sei eterosessuale, ti aspetta la morte. La polizia del genere esige qualità differenti dal bambino e dalla bambina. Mi ricordo del giorno in cui a scuola dalle suore, madre Pilar ci ha chiesto di disegnare la nostra futura famiglia. Avevo 7 anni. Mi sono disegnata sposata con la mia migliore amica Marta, 3 bambini e molti cani e gatti. Già immaginavo un'utopia sessuale nella quale esistesse il matrimonio per tutti, l'adozione e la procreazione medicalmente assistita. Pochi giorni dopo, la scuola ha spedito una lettera a casa mia, consigliando ai miei genitori di portarmi da uno psichiatra per poter risolvere al più presto un problema di identificazione sessuale. Numerose rappresaglie hanno seguito questo fatto: il disprezzo e il rifiuto di mio padre, la vergogna e il senso di colpa di mia madre. A scuola si diffuse la voce che ero lesbica. Cortei destrorsi si tenevano quotidianamente davanti alla mia classe. Sporca lesbica, dicevano, ti violenteremo così impari a scopare come Dio vuole. Avevo un padre ed una madre, ma sono state incapaci di proteggermi dalla repressione, dall'esclusione e dalla violenza. mio padre e mia madre proteggevano non erano i miei diritti di bambino, ma le norme sessuali e di genere che erano state inculcate loro nel dolore attraverso un sistema educativo e sociale che puniva qualunque forma di dissidenza attraverso la minaccia, l'intimidazione, il castigo e la morte. Avevo un padre ed una madre, ma nessuno dei due ha potuto proteggere il mio diritto alla libera autodeterminazione di genere e di sessualità. Benché io abbia avuto un padre ed una madre, l'ideologia della differenza sessuale e dell'eterosessualità normativa me li hanno confiscati. Mio padre fu ridotto al ruolo di rappresentante repressivo della legge di genere. Mia madre fu destituita da tutto ciò che avrebbe potuto rappresentare al di là della sua funzione di utero, riproduttrice della norma sessuale. Quell'ideologia ha spogliato il bambino che ero dal diritto di avere un padre e una madre che avrebbero potuto amarmi e occuparsi amorevolmente di me. È stato necessario molto tempo, sono state necessarie molte lotte e molte battaglie per andare oltre una tale violenza. Quando il governo socialista di Zapatero nel 2005 propose la legge che riconosceva il matrimonio omosessuale in Spagna, i miei genitori, sempre cattolici praticanti di destra, hanno manifestato in favore di questa legge. Non hanno manifestato solo per difendere i miei diritti, ma anche per rivendicare il loro diritto di essere padre e madre di un bambino non eterosessuale. Per il diritto ad essere genitori di tutti i bambini, indipendentemente dal loro genere, dal loro sesso, dal loro orientamento sessuale. Mia madre mi ha raccontato che aveva dovuto convincere mio padre, più reticente. Mi ha detto: anche noi abbiamo il diritto di essere i tuoi genitori. I manifestanti del 13 gennaio non hanno difeso il diritto dei bambini, hanno difeso il potere di educare i bambini secondo la norma sessuale e di genere, di educarli come presunti eterosessuali. Costoro sfilano nelle strade per mantenere il diritto di discriminare, di punire, di correggere, qualunque forma di dissidenza o deviazione, ma anche per ricordare ai genitori dei bambini non eterosessuali che il loro dovere è quello di vergognarsene, di rifiutarli e di correggerli. Noi difendiamo invece il diritto dei bambini a non essere educati come forza lavoro e forza riproduzione dell'ordine sessuale eteronormativo. Noi difendiamo il diritto dei bambini a non essere considerati come futuri produttori di sperma, come futuri uteri. Noi difendiamo il diritto dei bambini a essere delle soggettività politiche irriducibili ad un'identità di genere, di sesso e di razza. La lettura che vi abbiamo proposto era Chi protegge il bambino queer di Beatrice Presiado. La traduzione che vi abbiamo proposto è stata fatta da Sara Garbagnoli. Potete trovare il testo integrale su www.mariomeli.net, anche su altri siti che hanno scelto di repubblicarlo. Sono le 17.03, quindi il tempo a nostra disposizione è scaduto. Vi lasciamo in compagnia di Animal Radio sulle libere frequenze di Radio Blackout. Vi diamo appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 16 alle 17. Un saluto a tutti e a tutte da Francesca e un saluto anche da Ilaria. Buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Blackout.